Logos, E-R-H-E-M-A. Vorrei iniziare le mie riflessioni ponendo delle domande intorno alla comprensione della parola, alla predicazione, alla preghiera e alla condotta cristiana. 1. Perché tante persone leggono la Bibbia e non la comprendono? 2. Perché tante promesse della Scrittura non vengono realizzate dai cristiani? 3. Perché i teologi fanno affermazioni che non si accordano tra di loro? 4. Perché spesso i credenti dimenticano un messaggio dopo pochi minuti che lo hanno ascoltato? 5. Perché tante preghiere dei cristiani non vengono esaudite? 6. Perché alcuni predicatori alla fine del loro messaggio non hanno comunicato nulla alla Chiesa? 7. Perché certi cristiani che leggono la parola di Dio non riescono a ricordare ciò che hanno letto? 8. Perché i cristiani danno diverse interpretazioni di uno stesso passo della Scrittura? 9. Perché un credente glorifica Dio facendo una cosa, mentre un altro, pur facendo la stessa cosa, non glorifica Dio? 10. Perché le chiese, pur avendo come fondamento della loro fede la Bibbia, alla fine affermano cose diverse? 11. Perché alcuni credenti, pur mettendo in pratica ciò che è scritto, non fanno la volontà di Dio? 12. Perché preghiere come aumentaci la fede possono essere assurde? 13. Perché i cristiani citano testi della Scrittura in modo sbagliato? La risposta a queste domande, che probabilmente tutti ci siamo posti, è il termine, parola. In greco, la lingua del Nuovo Testamento, vi sono due termini che hanno questo significato e sono logos e rema. Troviamo questi due termini nel seguente versetto. Chi mi respinge e non accetta le mie parole, rema, a chi lo giudica? La parola, logos, che ho annunciata, è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Giovanni, mezzogiorno 48. Poiché la parola logos si trova più di 300 volte e la parola rema si trova più di 60 volte nel Nuovo Testamento, diventa indispensabile comprenderne l'esatto significato per non perdere gran parte del messaggio di Dio. E, molto importante ricordare che la nostra Bibbia in italiano è la traduzione dei testi originali scritti in ebraico e greco. Non è sufficiente conoscere bene una lingua per tradurla correttamente perché troviamo spesso enormi difficoltà dovute al fatto che un termine non ha sempre lo stesso significato. Il traduttore deve tener presente non solo il significato del termine, ma anche il senso al quale ci si riferisce. Facciamo un esempio con il termine rapporto. Noi parliamo del rapporto fra Dio e gli uomini. Diciamo che vi è un rapporto fraterno. Parliamo del rapporto sessuale. Constatiamo che esiste il rapporto di amicizia. Vi è il rapporto geometrico. Possiamo avere rapporti di affari con qualcuno. Se esaminiamo il contesto in cui viene usato il termine, notiamo come esso abbia diverse sfumature. Nel rapporto tra Dio e gli uomini si parla di una situazione. Per rapporto fraterno si intende comunione. Per rapporto sessuale si intende un legame, una relazione. Per rapporto di amicizia si intende una intesa, un accordo. Per rapporto geometrico si intende stabilire un valore reciproco. Per rapporto di affari noi intendiamo una relazione commerciale. Quindi la parola rapporto in italiano può avere il significato di situazione, legame, intesa, comunione, valore, relazione. Così, per il vocabolo parola, in greco troviamo due significati, secondo di quello che l'autore voleva mettere in enfasi. Vediamo il vocabolo logos. Il vocabolo logos. In greco il vocabolo logos deriva dalla radice leg. Per far comprendere quello che voglio dire, facciamo l'esempio con l'italiano. Nella nostra lingua, il verbo lavare deriva dalla radice lav, con la quale si formano le parole lavandino, lavatoio, lavamani. Tutte queste parole danno l'idea di qualcosa che pulisce, che serve a detergere, cioè lavare. Così, con la radice leg, dalla quale deriva la parola logos, si formano i termini raccogliere, raccontare, parlare. Quindi, il vocabolo logos ha il significato di parola, discorso, racconto, affermazione, detto, senso, notizia, annuncio. La parola logos è quindi riferita al discorso, al suo tema, al senso e al detto di questo. Tenendo presente ciò, alcune affermazioni bibliche, a noi note, possono acquistare un significato più ampio e più preciso. Diceva loro ancora: come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia condannato a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è Corban, vale a dire un'offerta a Dio, non gli lasciate più far niente. Per suo padre o sua madre, annullando così la parola logos di Dio, con la tradizione che voi vi siete tramandata. Di cose simili ne fate molte. Marco 7, 9-13. Gli scribi e i farisei non annullavano la legge di Dio, anzi erano molto scrupolosi nell'osservarla. Ma nell'osservarla venivano meno nell'ubbidire al senso per cui Dio aveva dato l'ordine. Gesù li rimprovera perché avevano annullato un principio di Dio nell'osservare un altro comandamento. Da notare che non sempre si annulla la giusta santa legge di Dio comportandosi contrariamente ad essa, ma osservandola. Infatti non dobbiamo mai dimenticare che Gesù Cristo, il Figlio Santo di Dio, è stato condannato sulla base della legge che lui stesso ha promulgato. Infatti i giudei dissero a Pilato: noi abbiamo una legge, e secondo la nostra legge egli deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Giovanni 19,7. Proprio perché la legge può essere usata iniquamente, l'apostolo Paolo disse che la legge è buona, se uno la usa legittimamente. 1 Timoteo 1,8. Per questo, non è sufficiente avere e citare la scrittura per presentare il giusto pensiero di Dio. Anche il diavolo, tentando Gesù nel deserto, citò la scrittura, ma lo fece in modo errato. Altro testo dove troviamo il termine logos è in Galati 5, 13-14. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola, logos: ama il tuo prossimo come te stesso. Galati 5, 13-14. Grammaticalmente Paolo avrebbe commesso un errore. Ama il tuo prossimo come te stesso non è una parola, ma un concetto. Perciò, luce di queste riflessioni, comprendiamo che Paolo sta sostenendo che i comandamenti si riassumono in questo detto, in questa affermazione. In pratica, il senso dei comandamenti, o lo scopo per cui sono stati dati, è quello di amare il prossimo. In effetti, il senso dei comandamenti, o lo scopo per cui sono stati dati, è quello di amare il prossimo. Benché l'ordine di Dio sia chiaro, se c'è è un comandamento che viene trasgredito, è proprio questo. Se si parte dal presupposto che la maggioranza delle persone non hanno intenzionalmente lo scopo di voler ferire il prossimo, bisogna concludere che non si è compreso il significato di amare il prossimo. Se una simile domanda venisse posta al pubblico, sicuramente si riceverebbero le risposte più svariate e forse contraddittorie. Perciò è più che necessario tenere presente la risposta di Gesù in Matteo 7,12: tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Non vi è regola migliore che comportarsi con gli altri come vorremmo che gli altri si comportassero con noi. Questo atteggiamento verso il prossimo rispecchia esattamente il voler di Dio espresso nel primo grande comandamento rivolto verso chi ci circonda, e cioè ama il prossimo tuo come te stesso. È possibile amare il prossimo nel modo giusto solamente quando sappiamo amarci. E amare noi stessi significa avere cura del nostro intero essere, corpo, anima e spirito. Così, chi trascura il proprio corpo facendolo ammalare con droghe di ogni genere, compreso il fumo e il vino, chi trascura la propria anima non occupandosi della vita eterna e delle cose appartenenti a Dio, non può avere un giusto atteggiamento di amore nei confronti del prossimo. Ancora una volta, la vera saggezza proviene da Dio, sussiste in Dio e si esprime in Dio. In alcune versioni della Bibbia troviamo il sostantivo Logos anche nel racconto riguardante l'evento in cui Mosè riceve la legge da parte dell'Eterno. E Mosè rimase lì con Yahweh 40 giorni e 40 notti, non mangiò pane e non beve acqua. E Yahweh scrisse sulle tavole le parole del patto, le 10 parole. Esodo 34, 28. Questa versione mette in evidenza ciò che abbiamo detto. Sulle tavole non c'erano propriamente 10 parole, ma Dio scrisse sulle tavole i 10 comandamenti, i 10 detti, i 10 enunciati, fece le 10 affermazioni. Tenendo presente il significato che abbiamo evidenziato del vocabolo Logos, comprendiamo meglio anche il modo di esprimersi di Paolo quando parla del Vangelo. Più volte egli parla delle parola della croce, 1 Corinzi 1 e 18, o della parola della riconciliazione, 2 Corinzi 5, 18, 19. Affermazioni, queste alle quali si è fatto l'orecchio, ma di cui probabilmente non abbiamo afferrato il vero senso. Usando una simile terminologia, Paolo intendeva dire di aver raccontato o riportato fedelmente un fatto che aveva ricevuto per rivelazione. Egli sosteneva che, praticamente, il suo Evangelo era il senso di quello che Dio voleva che fosse trasmesso, e questo perché molti suoi contemporanei, pur predicando il Vangelo, non trasmettevano fedelmente il pensiero di Dio. È importante comprendere le parole di Paolo perché noi molti oggi commettono un grosso errore nell'evangelizzare e questo fa sì che l'Evangelo non penetri nei cuori dei molti oggi predicano un cristianesimo senza Cristo, un perdono senza pentimento, una redenzione senza una nuova nascita e un paradiso senza inferno. È giunto il momento di ritornare al messaggio assolutistico, al messaggio che ha la pretesa di essere unico, al messaggio estremista. L'uomo è perduto, è figlio di Satana e solo in Cristo sta la risposta al suo problema. O Cristo lo salva o è perduto. Chiunque non va a Dio tramite Cristo trova il diavolo ad accoglierlo. Diversamente noi stiamo moralizzando le persone, il nostro operato si riduce all'insegnamento di una serie di regole per vivere meglio, anziché essere la predicazione del vero Evangelo. Come disse un grande scrittore, Gesù è venuto sulla terra per occuparsi della questione della redenzione dell'uomo. Non è venuto per portarci qualche cosa che serva ad aumentare la nostra intelligenza, la nostra capacità di vedere, di operare, creare. Tutte queste facoltà ce le ha date Dio, il Creatore. Ciò che il mondo aveva perso e che Gesù è venuto a ristabilire è il legame soprannaturale fra l'uomo e Dio, fra la vita terrestre dell'uomo e la sua vita eterna. Cristo non è venuto sulla terra per insegnarci le regole umane e terrestri del progresso. Abbiamo per questo ricevuto fin dall'origine la nostra natura con le sue leggi impresse in essa. Cristo è venuto a restaurare il solo principio capace di assicurare a questa intelligenza e a questa volontà l'equilibrio e la forza della loro attività terrestre. Figlio di Dio per natura, è venuto a ristabilire la nostra unione con Dio, a farci figli di Dio per adozione. Inoltre, aggiungo io, Gesù non è venuto perché l'uomo osservi i suoi comandamenti, perché ami il prossimo come se stesso. Si possono osservare i comandamenti di Dio, si può amare il prossimo ed essere perduti. Chi non ha capito questo non può trasmettere la parola della croce o la parola della riconciliazione. Dobbiamo accettare il fatto che il messaggio della croce è un messaggio traumatico. Lo è per chi segue dei precetti religiosi perché non si salva mediante la sua religione. Lo è per la persona da bene perché nessuno è degno di andare in cielo. Lo è per chiunque perché bisogna ammettere di aver fallito nella vita e occorre affidare la propria vita a Dio senza riserve affinché Egli la modelli. Se vogliamo trasmettere il Logos di Cristo, cioè il suo messaggio, dobbiamo partire dai presupposti che Dio ha dettato. Oggi si predica una conversione senza ravvedimento, si annuncia un pentimento senza cambiamento, un ritorno a Cristo senza conversione. La vita di un convertito cambia, se non cambia non c'è, è conversione. Se noi predichiamo un altro Evangelo, non è più il Logos, ma una Logos, cioè un discorso senza senso, irrazionale, un discorso che non annuncia nulla. Oggi ci è la tendenza ad annunciare non il Logos, ma a raccontare la propria esperienza e su quella costruire la propria vita religiosa. L'uomo è salvato perché crede al messaggio di Gesù Cristo, non perché ha avuto esperienze mistiche più o meno incisive. Paolo stesso non ha mai fatto vanto delle rivelazioni che Dio gli ha concesso, ma si è sempre preoccupato di presentare Cristo crocifisso, e solo Cristo. Tenendo presente il significato del vocabolo Logos, comprendiamo meglio che cosa intendiamo quando diciamo che la Bibbia è la parola di Dio. Essa non è un libro dove tutte le parole sono espresse direttamente da Dio, ma è il libro ispirato da Dio, dove egli per mezzo di diversi comuni mortali testimonia o racconta ciò che ha operato affinché noi poniamo fede in lui. Dobbiamo stare attenti di non fare della Bibbia un mito, una reliquia o una Bibbia sacra. Nella Bibbia vi sono delle parole dette da Satana, da uomini malvagi, vi sono proverbi umani citati anche da Gesù, vi sono detti di poeti, e tutto questo costituisce la parola di Dio, cioè il messaggio di Dio. Quindi, non è solo la Bibbia l'unico strumento mediante il quale Dio parla, ma parola di Dio è anche tutto ciò che avvicina a Dio per rivelazione, purché essa sia in armonia con il pensiero di Dio espresso nella sua parola. Chi non ha compreso questo, chi non accetta questo aspetto della rivelazione divina, cade, senza rendersene conto, nella bibliolatria. Crede che la Bibbia tradotta possegga un sigillo divino, come il Corano. I cristiani affermano che la Bibbia sia stata ispirata da Dio nei suoi testi originali, ma non sostengono che la Bibbia in loro possesso sia perfetta, senza errori. La Bibbia che abbiamo nelle nostre mani contiene alcuni errori di vario genere, ma essi sono dovuti alla trasmissione del testo nel corso dei secoli. La Bibbia nei suoi testi originali rimane comunque l'inerrante parola di Dio. Ecco un bellissimo pensiero dello scrittore C.S. Lewis. Gesù è venuto sulla terra per occuparsi delle questioni della redenzione dell'uomo. Non è venuto per portarci qualche cosa che serva ad aumentare la nostra intelligenza, la nostra capacità di vedere, di operare, creare. Tutte queste facoltà ce le ha date Dio il Creatore. Ciò che il mondo aveva perso, e che Gesù è venuto a ristabilire, è il legame soprannaturale fra l'uomo e Dio, fra la vita terrestre dell'uomo e la sua vita eterna. Cristo non è venuto sulla terra per insegnarci le regole umane e terrestri del progresso. Abbiamo per questo ricevuto fin dall'origine la nostra natura con le sue leggi, impresse in essa. Cristo è venuto a restaurare il solo principio capace di assicurare a questa intelligenza e a questa volontà l'equilibrio e la forza della loro attività terrestre. Figlio di Dio, per natura, è venuto a ristabilire la nostra unione con Dio, a farci figli di Dio per adozione. Ed io aggiungo che Gesù non è venuto perché l'uomo osserva i suoi comandamenti, perché ami il prossimo come se stesso. Si possono osservare i comandamenti di Dio, si può amare il prossimo ed essere perduti. Chi non ha capito questo non può trasmettere la parola della croce o la parola della riconciliazione. Dobbiamo accettare il fatto che il messaggio della croce è un messaggio traumatico per chi segue dei precetti religiosi perché non si salva mediante la sua religione, per la persona da bene perché nessuno è degno di andare in cielo, per tutti perché bisogna ammettere di aver fallito nella vita e occorre affidare la propria vita senza riserve a Dio perché Egli la modelli. Una conversione senza ravvedimento, senza pentimento, senza cambiamento non è conversione. La vita di un convertito cambia, se non cambia non c'è che conversione. Se noi predichiamo un altro Evangelo, non è più il Logos, ma una Logos, cioè un discorso senza senso, irrazionale. Un discorso che non annuncia nulla. Oggi ci è la tendenza ad annunciare non il Logos, ma a raccontare la propria esperienza e su quella costruire la propria vita religiosa. L'uomo è salvato perché crede al messaggio di Gesù Cristo, non perché ha avuto esperienze mistiche più o meno incisive. Paolo stesso non ha mai fatto vanto delle rivelazioni che Dio gli ha concesso, ma si è sempre preoccupato di presentare Cristo e solo Cristo. Vi è un ultimo aspetto da considerare in merito al termine Logos, cioè parola. Lo troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio. E la parola era Dio. Egli, la parola era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non le hanno compresa. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria del unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Abbiamo detto che gli studiosi di greco danno al vocabolo logos il significato di parola, discorso, racconto, affermazione, detto, senso, notizia, annuncio. Perciò, quando noi troviamo il termine parola nelle nostre Bibbie, abbiamo l'idea che essa si riferisca ad un discorso, al suo tema, al senso e al detto di questo. Nulla di sbagliato. Ma vi è un'altra verità che deve essere tenuta in considerazione e che arricchisce la nostra comprensione della Scrittura. Nel prologo del Vangelo di Giovanni la parola, in greco logos, che era presso Dio ed era Dio e Gesù Cristo. Su questo non vi sono dubbi, anche perché più avanti Giovanni afferma che la parola si è fatta carne e da quanto ne sappiamo solo Cristo che è Dio, ha assunto un corpo. Perciò la parola alla quale si riferisce l'Evangelista Giovanni non è un detto o un discorso che è uscito dalla bocca di Dio rivolto all'umanità, ma è la stessa persona di Cristo, o se vogliamo fare il paragone con l'Antico Testamento, è l'Eterno, cioè Yahweh, la persona che Yahweh, cioè la persona che sussiste nella Trinità, chiamata in questo caso Dio. L'aspetto che il Logos sia Cristo porta ad una comprensione nuova a espressioni che troviamo nella parola di Dio. Ora avvenne che, mentre Gesù si trovava sulla riva del lago di Gennesaret, la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio. Luca 5, 1. È evidente che la folla ascoltasse ciò che Gesù diceva, ma Luca vuole intendere che le persone ascoltavano il Logos, cioè la persona di Gesù, che in quel momento annunciava. Proclamava se stesso. Così pure dobbiamo interpretare nelle lettere e nel libro degli Atti che gli apostoli annunziavano la parola di Dio con franchezza, Atti 4 e 31. Non vi è dubbio che gli apostoli abbiano sempre proclamato la persona di Gesù Cristo, perciò quando annunziavano la parola di Dio dobbiamo intendere che essi non annunziavano tanto un messaggio, quanto la persona del Logos, cioè di Cristo. Che Cristo Gesù sia il messaggio non vi è fuor di dubbio, ma un messaggio non è automaticamente una persona. Chi è in grado di capire questo ha avuto una rivelazione, cioè un rema. Questo sarà il prossimo tema che affronteremo trattando questo vocabolo. Il vocabolo rema. Abbiamo detto che in greco vi sono due vocaboli che noi traduciamo col termine parola, e cioè logos e rema. Abbiamo considerato che il vocabolo logos ha a che fare con un annuncio, un detto, un racconto. Come la parola logos deriva da una radice, così anche la parola rema ha la sua radice, e cioè re, da cui derivano le parole detto, fatto caso e cosa. A prima vista i due termini sembrano intercambiabili, e del resto non potrebbe essere diversamente dal momento che vengono tradotti con lo stesso vocabolo. Infatti il dizionario dei concetti biblici, per il termine rivelazione, rimanda per maggior comprensione al vocabolo parola. Però gli studiosi affermano che il sostantivo rema significa ciò che verrà detto, ciò che verrà messo in effetto. Il risultato del dire e del fare, questa parola contiene in sé il suo compimento e ha la tendenza a diventare realtà. In altre parole, rema ha a che fare con la parola rivelazione. L'esame di questo termine rivela dunque una sottile e importante differenza con il vocabolo logos. Il vocabolo logos si riferisce alla rivelazione di Dio in generale, alla portata di tutti gli uomini, quali ad esempio la creazione, la coscienza o la Bibbia. Questi strumenti sono posti come un logos, cioè come un detto, un annuncio, un discorso, una testimonianza. Nel Salmo 19 troviamo che la creazione sia una testimonianza, un detto, un annuncio, un discorso per l'uomo. Al direttore del coro, Salmo di Davide. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non sode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Salmo 19, 1 a 4. La creazione è dunque una realtà oggettiva. Il creato annunzia che vi è un creatore, è un logos che parla agli uomini. È vero che il firmamento non ha un linguaggio umano, ma la sua voce si diffonde ovunque. Questi messaggi o evangeli sono realtà oggettive esterne all'uomo che non lo coinvolgono immediatamente. Ma quando queste realtà si percepiscono in modo personale, quando tutto ad un tratto si comprende che esiste un creatore, allora il logos che è alla portata di tutta l'umanità si trasforma in rema, in rivelazione personale per chi la riceve. Quando l'uomo considera il creato che osserva fin dalla sua nascita e tutto ad un tratto percepisce la maestà del suo creatore, la realtà oggettiva si trasforma in un'esperienza che non lo lascia qual era in precedenza. E così è della parola di Dio. Quando l'uomo che da anni legge la Bibbia ad un tratto comprende che quelle parole ormai note lo riguardano personalmente, esse diventano per lui una realtà che lo coinvolge e si trasformano in una rivelazione. Tenendo presente questa sfumatura, comprendiamo meglio il significato di certe espressioni bibliche e nello stesso tempo possiamo rispondere alle domande che ci siamo posti. Or nell'anno quindicesimo del regno di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, suo fratello Filippo tetrarca del Iturea e della regione della Traconitide e Lisania tetrarca del Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio, rema, fu indirizzata a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto, Luca 3, 2. Giovanni non fece alcun miracolo, non fu un leader, non fondò delle chiese, si limitò a predicare la parola di Dio, cioè ciò che gli era stato rivelato. Giovanni fu una voce. Purtroppo molti credenti si accontentano di essere un eco anziché una voce. Si limitano a ripetere ciò che altri hanno detto anziché riportare ciò che ricevono come rivelazione da parte di Dio. Gesù disse: colui che Dio ha mandato dice le parole rema di Dio. Giovanni 3 e 34. La Chiesa ha bisogno di pane fresco, non di pane riscaldato. La manna che gli israeliti tenevano da parte nei giorni in cui non era ordinato loro di conservarla, faceva i dermi. Abbiamo urgentemente bisogno di uomini e donne che predicano le fresche rivelazioni di Dio. La parola rema chiarisce anche un'espressione molto comune e spesso usata impropriamente. Si tratta dell'episodio della tentazione di Gesù. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola, rema, che proviene dalla bocca di Dio. Matteo 4, 1 a 4. Alla risposta di Gesù si è spesso data questa interpretazione: l'uomo non ha bisogno solo del pane, ma anche della parola di Dio, cioè della Bibbia. Alla luce delle nostre riflessioni, se al posto di parola, cioè annuncio, leggiamo come è in greco rema, ciò che intendeva affermare Gesù è qualcosa di diverso. Gesù risponde al diavolo con la citazione di un passo biblico collocato nel Deuteronomio. Il contesto è questo: abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché viviate, moltiplichiate ed entriate in possesso del paese che l'Eterno giurò di dare ai vostri padri. Ricordati di tutto il cammino che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato. Ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca dell'Eterno. Dal contesto si comprende il senso di ciò che ha detto l'Eterno. L'Eterno fece dimorare il suo popolo per 40 anni in un deserto dove era impossibile sopravvivere, per insegnargli che se era ancora in vita non lo doveva solo a se stesso, ma era grazie al suo sostegno. Con questa premessa Gesù non ha detto al diavolo che l'uomo per vivere non ha solo bisogno del pane, ma anche della parola di Dio, cioè della Bibbia, ma che la sua esistenza dipende anche dal volere di Dio. Mentre il diavolo voleva incutere in Gesù la paura della morte, Gesù gli ha risposto che Dio si sarebbe occupato di lui, che il suo rema, cioè il suo piano, la sua volontà, si sarebbe comunque compiuta. Il termine rema chiarisce ancora tante espressioni della parola di Dio che vengono interpretate malamente. Quando Simeone disse «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo?» Secondo la tua parola rema, Luca 2,29, confessava a Dio di essere pronto a morire non perché era giunto il suo momento, ma perché lo Spirito gli aveva rivelato anticipatamente che non sarebbe morto finché non avesse visto il Salvatore. Quando Gesù disse che chi è da Dio ascolta le parole «rema di Dio», Giovanni 8,47, non si riferiva tanto a chi ascolta il messaggio di Dio, ma stava sostenendo che chi appartiene a Dio ascolta le rivelazioni che vengono da Lui. Questo fa la differenza tra il cristiano e chi ha un vago timore di Dio. Quando Paolo disse di prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola rema di Dio, Efesini 6,17, la spada dello Spirito non è tanto riferita alla Bibbia, ma alle rivelazioni date da Dio. Queste rivelazioni sono in grado di penetrare nel cuore dell'uomo. Questo spiega perché alcuni citano la Scrittura, e questa non viene percepita come tale. Essa viene citata semplicemente come parola di uomini. Una parola detta invece da chi ha ricevuto la rivelazione produce l'effetto per la quale è stata scritta. Solo chi riceve le rivelazioni è in grado di comunicarle. Perciò, non è sufficiente predicare, occorre annunciare ciò che è stato rivelato al nostro cuore e al nostro spirito. Quando Maria, la madre di Gesù, disse «Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola, Rema, Luca 1,38», accettò di rimanere incinta in modo miracoloso non tanto per quello che l'angelo le aveva detto, ma per quello che le aveva rivelato. Perciò i miracoli si compiono a seguito di rivelazioni da parte di Dio, e non per volontà d'uomo. Pietro calò le reti e pescò una quantità straordinaria di pesci, perché Gesù glielo aveva ordinato. Pietro camminò sulle acque perché Gesù glielo aveva ordinato. Noi non siamo chiamati a fermare il sole, a dividere le acque, a guarire i ciechi o a risuscitare i morti. Se non riceviamo da parte di Dio un chiaro comando in tal senso, non è sufficiente che ciò che desideriamo compiere per il regno di Dio abbia un riscontro nella Bibbia. Dobbiamo avere da parte di Dio una rivelazione della sua volontà specifica per noi. Se così non è, la parola di Dio diventa un pretesto per compiere la nostra volontà. Questi esempi dimostrano quanto sia importante aspettare la voce di Dio rivelataci individualmente, non attenendoci solo a quella che Egli generalmente ci comunica. Un altro passo della Scrittura, dove troviamo il termine rema, è nel Vangelo di Matteo al capitolo 12. Io vi dico che di ogni parola, rema oziosa, che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Matteo 6:36. Davanti a Dio il nostro parlare ha un valore eterno, perché dalle nostre parole dipende il bene della vita presente e il nostro eterno futuro. Gli uomini non solo renderanno conto di quanto hanno sostenuto a parole e non hanno messo in pratica, ma anche di ogni rivelazione che hanno ricevuta da parte di Dio e alla quale non hanno ubbidito. Questo non ci può lasciare indifferenti. Ognuno prima o poi è convinto dalla persona dello Spirito Santo di essere peccatore davanti a Dio, e un rifiuto di tale rivelazione porta alla condanna eterna. Anche i credenti, benché siano certi della salvezza, se non ubbidiscono alle rivelazioni che ricevono da parte di Dio, non hanno il premio che è promesso a tutti coloro che amano Gesù Cristo. È dunque vero che ogni rivelazione di Dio non torna indietro vuota, se non è accettata, è di condanna per l'incredulo e di giudizio per il credente. Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: «Se dimorate in me e le mie parole prema dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto». Giovanni 15, 7. Secondo Gesù, non è sufficiente conoscere la Bibbia perché le nostre preghiere siano esaudite, e neppure è sufficiente ritenere le scritture nella mente. Quante persone conoscono la Bibbia e la citano? Per essere esauditi occorre ritenere nel cuore ciò che Gesù ci ha rivelato per mezzo del suo Spirito. La Chiesa ha urgentemente bisogno delle rivelazioni di Dio per essere esaudita. Non è vero dunque che possiamo chiedere tutto quello che vogliamo e lo otterremo, come non è vero che Dio risponde sempre alle nostre preghiere, ma Dio è vincolato a quello che ci ha rivelato. Infine il termine rema è in grado di aiutarci a comprendere uno dei testi difficili da interpretare e al quale si sono date le più disparate interpretazioni. Quelli infatti che sono stati una volta illuminati hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola, rema di Dio. E le potenze del mondo a venire, se cadono, è impossibile riportarli un'altra volta al ravvedimento, poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Ebrei 6, 4 a 5. Secondo l'autore della lettera agli Ebrei, non sono propriamente coloro che ascoltano la parola di Dio, cioè il Logos, ad essere chiamati in causa, ma coloro che hanno avuto da parte di Dio delle rivelazioni e non se ne sono curati. Per costoro non vi è speranza di salvezza. Questo aspetto dovrebbero far cadere i dubbi a coloro che ritengono appartenere ai salvati, coloro che ascoltano la parola di Dio, i quali perciò, secondo questa chiave di lettura, potrebbero perdere la salvezza. Se invece riteniamo che questi ascoltatori siano dei perduti così come il testo intende, allora non è la certezza della salvezza a essere messa in discussione, ma l'autore sta dichiarando è la certezza di perdizione per chi rifiuta le rivelazioni della persona dello Spirito Santo. Ancora una volta, i termini originali della parola di Dio possono dissipare quei dubbi dovuta ad una traduzione non ortodossa. Perciò, il vocabolo rema spiega tante cose. Esso è un termine preciso, specifico, dato ad una determinata persona, in una situazione particolare. Mia suocera, in un momento drammatico della sua vita, ricevette da parte di Dio la convinzione che suo figlio non sarebbe morto. E così fu. Un'anziana donna della Svizzera chiese ospitalità ad una famiglia rassicurandola che non sarebbe stata loro di peso perché Dio glielo aveva rivelato. In effetti morì nel sonno mentre era ancora in piena salute. Agostino attribuì a Dio la voce che sentiva, la ricevette come una rivelazione e divenne cristiano. Quando ero giovane soffrivo di una forte balbuzie. Accettai ciò che Dio disse mediante il libro del profeta Isaia, Isaia 28, 11 e 32, 4, come una rivelazione al mio cuore e la balbuzie sparì. Tutto questo è possibile perché Dio parla, rivela. Se i credenti non crescono, se le loro preghiere non sono esaudite, se il loro messaggio è impotente, se la Chiesa non sperimenta una vita gioiosa, ciò è dovuto alla loro trasgressione del primo comandamento, ascolta. Ecco cosa dice in merito il Vangelo di Marco. Uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che Gesù aveva risposto bene, si avvicinò e gli domandò: «Qual è il più importante di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è, Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo, ama il tuo prossimo come te stesso, non ci è nessun altro comandamento maggiore di questi. Marco 12, 28-31. Dio comanda ad ogni uomo di ascoltarlo. Poi in seguito ordina di amare Dio e il prossimo. Questo è il primo comandamento e la prima legge, che precede ogni altro ordine di Dio. Perché possa rimanere ferma l'opinione che il primo comandamento è quello di ascoltare, leggiamo nel libro dell'Esodo. Alle acque di Mara l'Eterno diede al popolo una legge e un decreto e lo mise alla prova, e disse: se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, e fai ciò che è giusto ai suoi occhi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Esodo 15, 25-26. Ciò che l'Eterno ordinò al popolo di Israele a Mara era, in sintesi, anche il messaggio dei profeti, Geremia capitolo 7, 20. Se i primi giudei cristiani, cioè gli apostoli, non avessero ascoltato la voce di Dio, ancora oggi offriremmo dei sacrifici di animali, non avrebbero predicato la nuova notizia e noi non l'avremmo ascoltata. La legge era stata data per condurci a Cristo, il nostro legislatore. I comandamenti di Dio non sono fine a se stessi. Se lo stesso sabato è fatto per l'uomo e non viceversa, significa che i comandamenti di Dio, quali la santità, l'amore e il servizio, sono per il benessere dell'uomo. Purtroppo troppi credenti sono in relazione con un complesso di regole anziché con una persona. Dio non è un libro pieno di prescrizioni, ma una persona da amare, da ascoltare, da seguire. Verrà un tempo in cui tutti i nostri sistemi saranno duramente scossi, e soltanto chi ha intrecciato una relazione intima con Gesù Cristo e ascolta la sua voce rimarrà vittorioso al momento della prova. Sta scritto nel libro del Deuteronomio: le cose occulte appartengono a Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli. Deuteronomio 29, 29. Noi non siamo responsabili di quello che non sappiamo, ma di quello che Dio ci rivela. Dobbiamo preoccuparci non tanto dei versetti che non capiamo, ma di quelli che comprendiamo perché Dio ce li ha rivelati e non li mettiamo in pratica. Accogliamo con la massima serietà l'avvertimento di Dio. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quantomeno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo, Ebrei mezzogiorno 25. Diciamo con Samuele: parla perché il tuo servo ascolta. Luglio 1987. Ellero.